Radio 24 Reportage. Torino, fare cinema dietro le sbarre, di Marta Cagnola. Lasciare fuori tutto, il cellulare, gli effetti personali, portare dentro solo lo stretto necessario e ciò che è autorizzato. Dentro significa semplicemente in carcere. Oggi vi porto con me all'interno delle Vallette di Torino. Grazie a un film, Tutta colpa di Giuda, con Fabio Troiano, Kasia Smutniak, Luciana Littizzetto e soprattutto i detenuti della sezione sesta, blocco A, delle Vallette. La sesta è una sezione modello, non si preoccupi. Ladri, spacciatori, rapinatori di farmacie, poca roba. Tutta gente nel tuo posto, vedrà. Ah, e c'è anche un uxoricida. Direttore, buongiorno. Signori, quelli... non me li faccia sentire troppo vivi. 4, 5, 6, 7... Sua Bonaria? Questa è la cosa, la regista? Sì. Vi ho visto in cortile, sa? E mi è venuta un'idea per lo spettacolo. Una passione di Cristo interpretata dai detenuti. Che ne dice? E un'Ave Maria non farebbe male neanche lei, sa? Io non prego. Certo, lei fa il teatro. Però dobbiamo assegnare i ruoli. Ponzio Pilato. Maria Maddalena. Regina Celi. E Giuda? Chi vuol fare il Giuda? Se non collabora, non me lo faccia sapere. Perché nessuno vuole ritornare ai raggi. Ho capito che cos'è che non va nel Gesù del Vangelo, sa? Che lui non vuole salvare questo mondo, ma quello suo, quello perfetto che nessuno ha mai visto. Non è l'arte che ci salva, è la fede. La religione ci rende schiavi, l'arte ci libera. La fede. La poesia. L'obbedienza. La libertà. Vada retro, Satana. Don Iri, ma che si è messa a fare l'esorcista? Adesso so cosa faremo. Lo faremo senza la croce. Confesso, sono un bandito fuori dall'ordine costituito. Mi hanno beccato giù alla dogana con 7 chili di marijuana. Noi siamo i cattivi, siamo i malvagi, siamo qui dentro per colpa di Giuda. Una regista teatrale d'avanguardia, un direttore di carcere, un cappellano che vuole mettere in scena una passione, 20 detenuti che vogliono solo far passare il tempo più velocemente possibile. Dopo aver conquistato la fiducia dei carcerati, Irena, la regista, si rende conto che dentro nessuno è disposto a recitare nel ruolo di Giuda. Allora, se Giuda non si trova, perché non pensare alla storia di Gesù in un altro modo? Una storia che non preveda tradimento, condanna, punizione e morte? Una storia che finisca bene? I detenuti, pur non afferrando le implicazioni filosofiche, apprezzano la scelta, purché sia contro la galera. A mettere in scena cinematograficamente la storia di una messa in scena teatrale nel carcere è stato Davide Ferrario, che nel carcere lavora da molto tempo. 9 anni di lavoro con i detenuti e anche di conoscenza non solo dei detenuti, perché il carcere è anche tutto il resto. E quello è il punto di partenza. C'è una premessa che fai a un certo punto dall'inizio, che non siamo nel braccio più duro, quindi la realtà che vediamo comunque non è la realtà carceraria più dura. Questa è la realtà carceraria migliore, quella appunto della detenzione attenuata, dei progetti anche educativi. Basta fare un passo dall'altro padiglione, da dove stiamo adesso, e c'è nella sezione del Covaleno, c'è la gente per terra. Cioè, questo è un carcere attrezzato per 900 persone, stanno dentro 1.600. In condizioni veramente disumane, in certi, cioè in condizioni soprattutto che non consentono nessun recupero delle persone che sono qua. Quello è il problema non è il carcere, il problema è la società, cioè quello che non funziona nella società, poi dopo il problema appunto è il tappeto, nel senso che non è la polvere che ci sbatti sotto, è la società che produce un certo disagio. La risposta che si dà a questo disagio, invece di essere una cura, è il carcere, cioè prendere un problema, toglierlo dalla strada, metterlo in una galera finché il problema ritorna per strada e poi ritornerà in galera, e non è una maniera di curarlo. Il rapporto con questi ragazzi? Ciao, ciao Franco, ci vediamo su. Vengo a trovarvi su dopo. Il rapporto con i detenuti è bello perché io non ho mai pensato che fossero dei poverini, e non ho mai pensato di essere un missionario. Siamo degli uomini con delle storie diverse, ci guardiamo in faccia e cerchiamo di parlare, semplicemente questo. Parlando con loro tutti dicono sì, ma dopo per noi cosa c'è? È una vera domanda, nel senso che tantissimi che sono usciti poi rientrano, perché una volta che sono fuori, poi di più con un problema aumentato dalla crisi, non si trova da lavorare. Se non trovi da lavorare, cosa fai? Vai a delinquere e il circuito continua a riprodursi su se stesso. Te la sei immaginata una possibile, non so, una soluzione, ma un modo per arginare il problema? No, io non sono un legislatore, io sono un narratore, un intellettuale. Diciamo che per quello che pertineva a me quando abbiamo fatto i film, io li ho assunti. nel senso che gli ho dato un lavoro per i 4 mesi che abbiamo girato, perché non volevo fare un'operazione di usiamo i detenuti. Hanno avuto una paga sindacale che è nettamente superiore a quella che di solito hanno per i lavori infami che di solito fanno, e sono contento così. Cioè, io mi sono rapportato correttamente, e questo credo sia, se tutti facessero così, ma anche al di fuori del rapporto detenuti uomini liberi, più correttezza e meno senso dello sfruttamento, già sarebbe un passo per partire. La nostra favola è finita, semplice e tragico. È finita, tutto qua. Eri tu mio amore, la mia dolce meta. La nostra vita insieme, un'armoniosa unicità. Se penso a quelle cose che morranno, perché non potremo più condividerle. Muoio anch'io. Il film è stato girato tra il 2006 e il 2007, proprio nello stesso periodo dell'indulto. Molti sono usciti e per questo il cast è stato mutato in corsa, e molti sono anche rientrati, perché fuori, dicono, è dura. Francesco Trovato e Michele Telesca, detenuti e per una volta attori. Fa capire che con l'indulto, quando sono uscito, ha fatto solo più danni che cose, capito? Perché se la città non ci accoglie come ci dovrebbe accogliere, con lavoro e sostegno, noi le regole le infrangiamo e ci sono due carcerati. Comunque questa esperienza del film è stata per noi importante, ci ha lasciato una bella emozione, dei ricordi da poter trascorrere quando siamo in cella. Grazie a Ferrari. Per quelli che siamo usciti, eh? E cerchiamo un posto come sistemarci un lavoro, no? Ma io sono elettricista, giardiniere, magazziniere. E quando ci chiedono magari il curriculum, sai, vita, i certificati penali, là veniamo presi a calcio, non mi sembra neanche giusto, perché se una persona vuole riabilitarsi non ne ha la possibilità. Ma qui dentro avete imparato a fare qualcosa? Lei già faceva un lavoro prima, sapeva farlo? Sì, qua dentro ho imparato anche, ho fatto il giardiniere, ho fatto l'elettricista, qui in carcere. Sì, però poi non mi è servito a molto, cioè non mi è servito a niente. E pensa che magari con questo film forse un aiuto per trovare un lavoro dopo? Ma io me lo auguro, mi auguro che questo film serva a qualcosa, a me, ai miei compagni, ma non tanto a qualcosa, anche a me, solo a trovarsi un lavoro per vivere una vita dignitosa, che mi sembra che è giusto che ogni cittadino che abbia pagato, adesso io sono un cittadino libero, ho pagato i miei debiti, li ho pagati fino all'ultimo, e adesso anch'io ho diritto a una vita dignitosa, no? Mirkovic. Sì. Quindi conosci l'espressione fare il morto? Pensi che qua dentro stiamo tutti quanti così? Stiamo a galla in un mare di giorni tutti quanti uguali. Fermi, immobili. Attenzione signorina, per fare il morto bisogna usare una certa leggerezza, Perché se uno si agita, cerca di fare qualcosa in compagnia bella, affonda e muore. Per sopravvivere qua dentro bisogna fare il morto. Capire il paradosso? Canna non l'ha capito. Signori, quelli, non me li faccia sentire troppo vivi. Lo dico per loro, per gli agenti, per me, e lo dico pure per lei. Buon lavoro, arrivederci. La mugella, canna. Tra gli attori non solo i detenuti, ma anche chi sta dall'altra parte della barricata. Salvatore Canni. Sono responsabile della sezione Prometeo, che curo questa sezione da circa 10 anni, che facciamo attività triatale, e sembra che comunque c'è una seconda casa, perché lavorando poi si affeziona alle persone, quindi va a comportare come stare in due famiglie, no? Una famiglia qua per lavoro e una seconda famiglia a casa per vivere. Questa deve essere, secondo me, una mia opinione, un'immagine che deve trasmettere fuori, nel senso bello, pulito e di libertà, perché già il carcere per sé è duro. Quindi questo per me è un contributo che volessi io che uscisse fuori da queste mura, che servirebbe non solo all'opinione pubblica, anche a tutte le persone comunque che ogni giorno delinquono, che il carcere non basta togliere l'inverriate o un muro di cinta. L'importante è che dentro ci deve essere sempre una certa umanità, una vivibilità, no? Che l'attività dovrebbero essere in tutti gli istituti d'Italia, secondo me. Questo rapporto si crea perché sono persone comunque che hanno bisogno, all'atto in cui vengono in istituto, sono persone che fuori sono prive a volte tante di loro di prima necessità. Quindi loro vengono in carcere e chiedono aiuto. Infatti loro, questa sessione Prometeo, raccoglie quelle persone che sono sieropositivi. In carcere già è difficile portarla a termine le cure, perché anche loro stessi fuori non è che si curano tanto. In carcere poi diventano obbligatorie, no? Perché c'è sempre sono persone. Dietro la maschera del detenuto c'è sempre un uomo, no? Una persona. Quindi diventano le cose oggettive, di prima necessità. Poi con loro curiamo, passiamo tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera insieme, a fare tutte le attività. E delle vostre condizioni di lavoro che non sono sempre facili? Sì, questo è vero, perché purtroppo uno spera sempre di migliorare i servizi all'interno, ma non per loro, per noi stessi, perché se uno crede che indossa una divisa scatta l'umanità, in noi c'è, e quindi se noi non siamo rilassate, pronte a ogni evento, no, come si fa a tutelare queste persone? Siamo poche come personale e a volte mettiamo la nostra oltre l'impossibile per mantenere l'ordine, la sicurezza e la civiltà, perché le persone quando vengono arrestate noi non li conosciamo. Al tempo riusciamo a capire, a cercarle, a farle riprendere, a diventare persone civili. Direi il carcere è un grande inganno, dice la certezza della pena. Se c'è una cosa certa al mondo è che siamo tutti a penare, guarda qua. Supplizi, tragedie, morti ammazzati, c'è stessa una si fa una risata. Il carcere così come non serve a niente. Non serve quello che faccio io, non serve neanche quello che fai tu. Più che altro serve a quelli che stanno fuori per tirare una linea, per buttare la monnezza sotto al tappeto. E nessuno si preoccupa del vero problema. Ossia? O tappeto.